Eccoci. Allora, siamo qui con Umberto Baccolo, il regista del cortometraggio Chiesa è stato, volume 1, Potere spirituale. Il soggetto e sceneggiatura sono di Umberto Baccolo, collaborazione di Luca Marchetti e Daniela Chiavarelli. E come sottofondo all'intervista abbiamo sentito Fernando Pù, che è l'autore della colonna sonora. Ci racconti un po' la trama, Umberto? Ciao a tutti, beh, innanzitutto vi ringrazio molto voi ragazzi di Radio Default di avermi invitato a parlare e dell'interessamento per il mio progetto. Diciamo che la trama è nata attorno all'idea della confessione. Il progetto nasce come saggio di fine anno per la scuola di cinema Sentieri Selvaggi che ho frequentato qua a Roma e quando si è trattato di pensare cosa mettere in questo saggio, che storia filmare. Il nostro docente di sceneggiatura, Demetrio Salvi, ci ha lanciato un po' lo stimolo o lo spunto, ma perché non fate una storia che racconti di una confessione? Questo per me era un terreno molto fertile, perché molta della mia produzione recente come scrittore, soggettista di progetti che sto portando avanti, riguarda proprio anche la tematica della Chiesa, dei rapporti con la religione, in particolare la tematica del potere, che è una di quelle su cui ho più interesse, quindi il famoso potere spirituale e di come la Chiesa e il potere cattolico o religioso in generale possa influenzare le persone anche nella loro sessualità, nella loro quotidianità e crearle tutto un complesso di sensi di colpa, o rovinargli insomma la vita. Lavorando con Luca Marchetti, che è un giornalista di Sentieri Selvaggi, e Daniela Ciavarelli, abbiamo deciso di scegliere il tono del grottesco, che era tra quelli che trovavamo un po' congeniali al nostro carattere. E abbiamo pensato a questa storia che racconta la confessione di un giovanissimo ragazzo cattolico sui 19 anni, che prova un fortissimo senso di colpa per via della sua forte educazione cattolica e del suo rapporto molto intenso, in particolare con la sua parrocchia di riferimento e col parroco di questa parrocchia, che per lui è veramente una guida e un vero potere e un vero mito. E questo ragazzo, per tutta una serie di eventi, ha portato ad avere un'esperienza omosessuale molto estrema e ad apprezzarla. E questo crea in lui un grandissimo conflitto interiore. Si creano quindi due poteri, essendo l'esperienza anche sadomaso. Si crea un conflitto enorme tra il potere del suo amante e dominatore sessuale e il potere del prete e della chiesa. E quindi il film ci mostrerà poi come lui risolverà e se riuscirà a risolvere questo conflitto e come potrà collocarsi all'interno della comunità cattolica e della società alla fine di questa sua esperienza di cambiamento. La trama è molto forte. E durante le riprese girate in gran parte a Comunia, uno spazio liberato 2 mesi a San Lorenzo, delle persone che giravano all'interno dello spazio hanno definito il tuo lavoro un soft porno e alcuni si ponevano dei dubbi etici, ancora prima di aver chiesto la trama o visto del girato. Ma per fortuna, essendo proprio uno spazio liberato, non ti hanno dato alcuna limitazione e lasciato proseguire. Qual è stato il tuo rapporto con lo spazio liberato? Il mio rapporto in realtà è stato assolutamente dei migliori. Questa cosa che tu mi dicevi forse l'avevo percepita a livello un po' di gag e di scherzo, anzi sono io che il primo a volte per scherzare dicevo che stavamo girando un porno. Nello stesso giorno c'erano i Colle del Fomento che giravano il loro videoclip sul tetto e in altre stanze. E per scherzare gli ho detto che stavo girando un porno, se volevano partecipare, anche loro sono stati molto simpatici. Ovviamente il film non è né un porno né un soft porno, ma questo lo dirò un attimo più avanti. Parlando sempre di Comunia, è un posto che devo assolutamente ringraziare per la disponibilità assoluta che mi ha dato, la collaborazione, e per la fiducia, per la libertà che sprigiona. Anche secondo me attualmente a Roma, di quelle che conosco, è una delle realtà veramente più interessanti, più vivaci, più creative. Io ero entrato in contatto attraverso amicizia di persone che sono tra gli occupanti. La prima collaborazione è stata presentare da loro una serata sulla gentrificazione di Berlino con un documentario sull'argomento girato da ragazzi del Kenya. un tema che mi stava molto a cuore, e visto poi il successo della cosa e la simpatia che si è creato, ho pensato di girare lì gran parte del mio corto, che ho girato tutto tra lì e la mia scuola. E la collaborazione andrà avanti, se tutto va bene, anche per futuri progetti. Quindi un augurio alle sinergie che si creano. In Italia il sesso è ancora un tabù, ancora di più se omosessuale. Hai riscontrato dei problemi di bigottismo durante la lavorazione del film o con i tuoi colleghi? Ma io assolutamente no, per fortuna sono stato contento che sia, come uno si aspetta ovviamente, a Comunia, sia però anche all'interno della scuola di cinema, e questo non è detto che capiti per forza, o dei collaboratori, ci sia stato un grosso interesse e supporto per il progetto, e nessun tipo di bigottismo o di moralismo. Sicuramente poi è successo che ci fosse qualcuno in disaccordo sulla forza, sulla violenza di certe scene, che comunque rientrano tutti nell'ambito di un prodotto non pornografico. Alla fine non ci sono scene di nudo, quindi non si tratta neanche di softcore. Anche la scena più forte è piuttosto aggressiva e ha un impatto un po' rosso, è anche girata con tonalità rossa apposta, ma non presenta nudità, o quindi non ho avuto nessun problema. A volte sì, sono uscite problematiche con a volte le famiglie di alcuni amici collaboratori che non erano contenti che magari i figli partecipassero a un progetto che parlasse anche di tematiche omosessuali, ma questo è stato un po' un unicum. Anzi, sono stato molto felice del fatto che il ragazzo bravissimo che poi ho scelto come protagonista abbia veramente lottato per il ruolo, pur essendo eterosessuale, in quanto credeva fortemente nella storia, nel suo valore e nel tipo di ideali e di concetti che spinge, anche queer, diciamo. Ottimo, infatti hai girato con il supporto dei tuoi compagni, ma anche con personaggi esterni alla scuola che già navigavano nel mondo dell'arte e spettacolo. Come ad esempio l'artista Lili Primavera. Ci vuoi dire qualcosa dell'esperienza del girare con attori professionisti e non professionisti? Beh, Lilith Primavera è un caso abbastanza particolare, perché fin da quando l'ho conosciuta un anno fa a Berlino, lei era in tournée, io in quel periodo stavo abitando lì, sono rimasto molto affascinato dalla sua figura, dalla sua persona, e ritrovandola poi a Roma, quando qua mi sono trasferito a novembre, avevo sempre avuto veramente il sogno di collaborare con lei. Facendo poi amicizia, gliel'avevo già proposto in passato per progetti che non abbiamo ancora realizzato, ma realizzeremo, e alla fine, quando ho deciso di girare questo corto, avevo bisogno di, sembra divertente, oggettistica erotica per una scena. Lanciando un appello ai miei contatti Facebook, Lilith è stata la prima a rispondermi. E così, anche se nella sceneggiatura originale non era previsto il suo ruolo, le ho chiesto se sarebbe andato di partecipare, e ho scritto un ruolo cucito apposta a lei, che penso nobiliti veramente il lavoro. Io sono un grande ammiratore di Lilith, che oltre ad essere una persona adorabile, è anche una grande attrice. Ne parlavo anche con una delle persone che mi ha fatto la consulenza per il film, Antonino Foti, che è stato per molti anni direttore dell'ufficio casting della Rai e è stato l'assistente di Susan Strasberg dell'Actor Studio a Los Angeles negli anni 80 o 90. E mi diceva, lui che veramente ha provinato molti attori e grandi attori, che Lilith, secondo lui, ha un talento davvero straordinario, specie come uso del corpo, dello sguardo. Recitare con il corpo, con un sopracciglio, recitare accendendo una sigaretta e stare fermi. Il ruolo di Lilith nel mio film è muto, ma penso che solo lei e poche altre avrebbero potuto renderlo con quel tipo di potenza. E spero davvero di collaborarci di nuovo in futuro. In realtà abbiamo già un progetto di una collaborazione in ballo che dovrebbe andare in porto a breve, e sarà il primo di molti. Penso sia una figura veramente interessante e sono onorato di averci partecipato, anche una persona estremamente disponibile e gentile. Lavorare con attori non professionisti e professionisti misti è sicuramente divertente, anche come regista. Io in questo caso sono stato veramente, veramente fortunato, perché i ragazzi che ho selezionato con i provini per i pochi ruoli del film si sono tutti rivelati davvero, davvero bravi e professionali, e non ho così avuto bisogno di fare troppe prove o di dare troppa impostazione. Sono felicissimo del protagonista, di Lilith, e anche sono felicissimo del ruolo svolto dal mio docente di montaggio, Bruno Fruttini, un documentarista e montatore professionista di ottimo livello, nonché un fantastico insegnante, che non ha quasi mai fatto l'attore, ma ha interpretato questo ruolo per me sfoderando un talento a tratti e una presenza scenica a tratti imprevisti. Perfetto, allora adesso mandiamo l'audio teaser, colonna sonora di Fernando Pù. Dopo questo breve audio, da cui poco capirete perché ovviamente è un corto, però da tanto l'atmosfera, riparte la traccia di Fernando Pù e noi ci sentiamo dopo. We'll be right back. E visto che siamo riusciti a sentirci questa traccia di Fernando Pù, parlaci un po' della collaborazione con quest'artista per la colonna sonora. Quella con Fernando è una collaborazione di cui sono veramente molto felice. Fernando Pù è un producer e DJ dell'Europa dell'Est, figura abbastanza mitologica a suo modo della scena rave, che da qualche tempo sembra vivere a Berlino, sembra, perché è una persona molto misteriosa, pochissimi l'hanno visto in faccia, anche quando suona sempre mascherato con maschere diverse, e si chiamerà veramente Fernando Pù, avrà altre identità, è tutto un mistero avvolto attorno a lui, anch'io non lo so veramente. Sta di fatto che da quando siamo entrati in contatto un annetto fa ed è cresciuta una reciproca stima e simpatia, gli ho proposto di, avendo fatto questo corto, di realizzare la colonna sonora se avevo un po' di tempo libero, trovandolo una mente affine alla mia e un carattere affine al mio, anche come visione artistica. Lui ha accettato la cosa, così a Berlino abbiamo lavorato assieme sulla faccenda e ha prodotto, secondo me, davvero un bel lavoro. Siamo stati un paio di giorni a mixare, coordinare, sistemare, in cui guardavo meravigliato il suo talento all'opera, e non ho quasi avuto bisogno di dargli indicazioni. Vedendo il film senza colonna sonora ha subito concepito come doveva essere e l'ha fatto non nel modo, dico, in cui l'avrei fatto io, che non ho nessun talento musicale, ma in un modo assolutamente compatibile con la mia visione del progetto, quindi sono molto soddisfatto. Anzi, abbiamo deciso che fino a quando non raggiungeremo l'Oscar continueremo a collaborare, quindi ogni mio possibile lavoro futuro probabilmente conterrà qualche traccia di Fernando. Noi ce l'auguriamo. Hai già fatto una proiezione del premontato a Berlino per discuterla con i tuoi collaboratori. Com'è andata? Le reazioni positive? Finora, in effetti, il corto, a parte ovviamente da me e dalla montatrice Livia Salvatorelli, una ragazza veramente di straordinario talento, giovanissima, che ho conosciuto nella mia scuola e con cui penso continuerò a collaborare in futuro, il film è stato visto completo soltanto da Fernando, che ha elaborato la musica, dal graphic designer Gabriella Fiore di Berlino, che ha elaborato i titoli di testa e di coda e curerà la grafica pubblicitaria del lavoro per le proiezioni live, e poi da una mia amica e collaboratrice, una truccatrice sempre di Berlino con cui lavorerò in futuro, e che ha una certa esperienza di trucco televisivo e cinematografico, e che, per quanto siamo molto amici, è sempre stata molto molto critica sul mio lavoro. Ero abbastanza spaventato di mostrargliela e sono stato molto felice quando per la prima volta mi ha detto che veramente le è piaciuto e pensa sia bello. Poi da Gabriella Fiore ho avuto un paio di consigli interessanti che mi hanno aiutato a sistemare il montaggio finale, a tagliare qualche piccola cosa, come pure da Fernando stesso. Ma la reazione è stata positiva, per me è stata una grande soddisfazione. Avevo abbastanza tensione a riguardo, credevo molto nel progetto, ci stavo puntando molto e ne ero soddisfatto, però quando una persona è molto coinvolta emotivamente con qualcosa e l'ha seguita dall'inizio alla fine, è facile che perda la lucidità di giudizio. E i pareri positivi di tre amici che stimo, esperti dell'argomento e che in passato non hanno mai evitato di criticarmi quando era il caso, mi hanno reso molto speranzoso e soddisfatto. Ma lo siamo anche noi, perché la visione del teaser sul canale di YouTube, che si chiama Umberto Baccolo, se volete vederla, ha superato le 500 visualizzazioni in due giorni. I primi due giorni erano 500, adesso sta andando oltre e oltre. E stai organizzando una piccola tournée di presentazione del progetto in Europa, in autunno. E vuoi dirci qualche città, lasciarci i contatti in caso ti vogliano bucare una proiezione, appunto il canale YouTube? Certamente. Diciamo che la prima del film sarà in provincia di Latina, località Sestri Scalo, domenica 30 giugno, cioè questa domenica, nell'ambito di un festival di musica elettronica e videoproiezioni che sto organizzando col mio marchio Alchemist Project. A queste seguiranno una serie di proiezioni tra Berlino, Roma, Milano, Bologna, Firenze e probabilmente anche altre città. Queste sono quelle in cui ho date più o meno sicure. Col fatto che però non sono ancora state fissate ufficialmente, non posso spingermi a dire date e luoghi. Sicuramente però entro il 10 di luglio ci sarà una proiezione a Berlino. Sto anche lavorando per la sottotitolazione in tedesco e in inglese. E dovremmo appunto organizzare una proiezione con la presenza di Lilith Primavera, che sarà a Berlino con me dal più o meno 2-3 al 10 di luglio. Dopo questo lo porterò in giro, se possibile sempre con Lilith e magari anche con Fernando, se disponibile e non impegnato in altre tournée. Ecco, hai già citato che la prima sarà questa festa Country Alien Total Party, che è il 29 e 30 giugno 2013 a Sezze, in provincia di Latina, e il 30, la domenica, ci sarà la proiezione del tuo cortometraggio. La festa è un figlio di Drastic Beat dall'incontro con l'Alchemist Project. Dietro questo nome ci sei tu. Vuoi parlarci un po' di cos'è questo progetto? Sì, Alchemist Project nasce nel 2009, quando io, che sono come tanti altri un po' un figlio della tard scena raver, un po' anche disgustato e stufato da un certo modo di vedere e organizzare i party, ho provato a proporre una mia visione con qualche festa, penso ne avremmo fatte una decina, tutte in Lombardia, piccole feste, la più grande penso che abbia fatto 250 persone, piccole feste tra free party, centri sociali o a volte là anche cascine di amici, in cui si provava a mirare più sulla qualità che sulla quantità, magari non tantissima gente, non un ritmo costante di party, però una buona qualità e un bello spirito e una partecipazione di gente interessante. L'ultimo party Alchemist è stato un anno fa a Pavia. Per un po' ho sospeso la faccenda perché ero preso con la scuola di cinema, con questo corto e con tutta una serie di altri progetti. L'incontro anche con i Drastic Beat, o comunque la mia passione per un certo tipo di socialità, mi ha portato a riproporre la cosa sul territorio romano, provando a creare un concetto un po' più allargato. Alchemist Project non è soltanto un marchio per delle feste, per della musica, vorrebbe essere anche sia una piccola casa di produzione cinematografica super underground e super indipendente, in cui si possa riunire un gruppetto di persone amanti del cinema che con questo marchio producono e provano a distribuire piccoli corti, videoclip, autoprodotti, autofinanziati, e anche poi un marchio con cui organizzare eventi artistici più in generale, possono essere mostre di arte underground, performance, tutti i campi che toccano il mio interesse. Anche questo è un figlio della mia esperienza di collaborazione con una realtà berlinese molto interessante morta da poco, l'X-Lab Corrosive Art Farm, con cui a fine aprile ho organizzato una grossa mostra a Parigi, Corrosive Container, che comprendeva performance, musica, esposizione, live painting. Sono attualmente con Alchemist orientato a lavorare in questo genere, feste che uniscano al ballo magari la pittura, la performance, la giocoleria. Il nostro esordio con i Drastic Beat, una festa un po' più tradizionale, che sarà anche il mio party di compleanno, sarà appunto quello di cui abbiamo parlato, Country Aliens, in provincia di Latina. Allora, io, conoscendo la tua passione per Jodorowsky, ti voglio fare una domanda. Alchemist è un nome mistico. La più famosa ricerca alchemica è la ricerca del trasformare materiali poveri in oro, ma l'alchimia in realtà ha due chiavi di lettura. Una molto antica, che vede questa pratica come una filosofia. che parla metaforicamente del percorso del crescimento di una persona, quindi dal materiale grezzo di uno studente al valore di un saggio, cioè l'oro. E c'è l'altra chiave di lettura, nata dalle leggende medievali, che riportano l'alchimia come una dottrina scientifica legata alla chimica per la reale produzione dell'oro, mettendo in chiaro di non voler sminuire la seconda interpretazione, che ha comunque generato molteplici generazioni di scienziati ed esperimenti. A quale delle due interpretazioni dell'alchimia ti rifai? Beh, alchemista, questa domanda è abbastanza particolare. Diciamo che Alchemist deriva in realtà quasi da una gag, dal fatto che quando abitavo a Pavia e studiavo lì comunicazione e cominciavo un po' a muovermi anche come organizzatore di eventi, uno dei soprannomi con cui ero noto era l'alchemico, il chimico, cose di questo genere, in un modo un po' scherzoso. A quale mi rifaccio? Beh, io sono un grande fan e seguace di Jodorowsky, sono diventato di recente con lui un workshop a Milano di psicomagia, un'esperienza molto intensa e interessante che consiglio a chiunque, che penso possa essere molto utile nella vita, specie per chi magari vuole lavorare anche nel campo dell'arte, molto interessante, o nella recitazione. Per me l'alchimia attualmente è appunto trasformare la nostra realtà in qualcosa di bello e migliore. Uno dei miei obiettivi nel mio piccolo, nella vita, sarebbe provare a fare qualcosa di bello, cioè nel mio piccolissimo, e sono uno che sicuro ha fatto anche tanti sbagli e tante cazzate nella sua breve vita, vorrei trasformare il mondo un posto migliore, e quindi un lavoro di questo tipo. Alchemist vorrebbe essere un progetto che prova a creare qualcosa di bello che possa far sentire la gente felice, non soltanto uno, come possono essercene tanti progetti per fare soldi, per diventare conosciuto in un certo ambiente o appunto per il discorso della monetizzazione, ma per proporre e spingere artisti di un certo interesse, sia video che audio. La mia finalità è totalmente non commerciale attualmente. Penso che in un primo ciclo di eventi che sto organizzando è anche possibile che andrò in perdita, però ho una serie di artisti in cui io credo molto, che voglio provare, finché ne ho la possibilità, a spingere, a far conoscere. Quindi sì, è trasformare magari del piattume che ci può essere in giro in qualche cosa di un po' più dorato. Perfetto, sono assolutamente felice di essere parte del tuo esperimento. Vediamo se riuscirei a trasformarci in questo weekend in una vita più dorata. Ovviamente vi rimandiamo l'appuntamento alla festa country Alien Total Party per vedere la prima di questo cortometraggio. E chiudo con una domanda sui prossimi lavori, perché questo corto fa parte di un progetto più vasto. Già nel nome tu dici volume 1, il che sta a indicare che il lavoro dovrebbe essere la prima parte di un dittico. Assolutamente, questa cosa è nata in un modo abbastanza curioso. Quando ho girato il video non avevo un titolo preciso, avevo solo un'idea. Quando si è trattato di decidere un titolo, mi è venuto in mente una serie di fumetti underground tra le più famose della storia, Cerebus, un fumetto canadese. Il terzo e il quarto volume di Cerebus si chiamavano Chiesa e Stato volume 1 e Chiesa e Stato volume 2. E trovavo questa cosa così bella, essendo io un grande appassionato dei fumetti, io sono laureato nei rapporti tra cinema e fumetto come argomento, ho deciso di citarlo e a questo punto di far partire il progetto del dittico, che quindi è nato dopo. Siccome quasi tutto il mio interesse di questo periodo a livello di autore è su lavori che parlino dei rapporti di potere, e di sessualità, di cose di questo genere, ho pensato di fare un lavoro sul potere spirituale e su come influenzi le persone e un lavoro sul potere temporale, che sto progettando in questo momento ed è abbastanza top secret, su come appunto lo Stato, la politica e il potere materiale influenzino la gente. Un progetto però ancora più immediato è sempre con Fernando Po. Essendoci trovati bene a lavorare e siccome io sarò a Berlino quasi tutto il mese di luglio per promuovere il mio lavoro, ho proposto a Fernando di girare un videoclip per lui. Lui ha avuto un'idea E anche quest'idea è sulla tematica della sessualità e del queer, essendo Fernando il resident DJ del Gegen, una festa veramente interessante che si fa a Berlino ogni 2 mesi al KitKat, organizzata da un meraviglioso personaggio di intellettuale romano, Francesco Macarone Palmieri alias Warbear. E così gireremo nella prima metà di luglio questo video in cui sarà protagonista Lilith Primavera e qualcun altro. Oltre a questi progetti, sto in realtà, oltre organizzando serate con Alchemist, scrivendo una caterva di soggetti che spero prima o poi di realizzare. Alcuni sono più vicino alla realizzazione, altri sono più lontani, come un mio progetto di lungometraggio che sto scrivendo praticamente dal 2009 e spero di riuscire a finire per i prossimi 10 anni. Ogni tanto lo sottopongo a qualche persona che gode della mia fiducia nell'ambiente artistico e quindi lo riscrivo sempre. In aereo in genere, quando viaggio tra Roma e Berlino mi vengono le idee più belle. Quindi vi salutiamo da Genzano in provincia di Berlino, lasciamo un'ultima traccia, lasciamo un po' di tracce, vi potrete godere un inizio serata con Fernando Po e ci vediamo domenica. Vi aspetto tutti i sabati e ringrazio tantissimo Radio Default per l'ospitalità, sperando di tornarli a trovare presto. Thank you.